ponte, un po' di insalatina e pompa d'occo, sono un pasto da re. Ma i re non hanno per render saporiti i pasti loro la salsa di digiuno e del lavoro. Capita, ora è notte e nencio ancor non viene. Io non vorrei che il riascol ci mettesse lo zampino per farmelo sviare. In tutto il giorno non è comparso mai, stasera lo servai, tutto mesto e confuso, rispondermi a rovescio e farmi muso. Perché io son poverina, perché gli è ricco e a qualche cosa le sole, ognuna me l'invidia, ognuna lo vuole. Se non avesse nulla, io non avrei rivali e sarei più contenta. A che mai servono queste tante ricchezze? Forse ad aver più guai e a non saziarsi mai. Chi non patisce o la fame o la sete, a chi non mancano